In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Data Center, Trust Services e tecnologie cloud enterprise. Le migliori soluzioni per realizzare grandi progetti. Aruba Enterprise, la certezza di una soluzione IT. Passioni, eroi, viaggi nell'anima, colpi d'ala, cadute e risalite, donne coraggiose, emozioni, superare i limiti. Il falco e il gabbiano di Enrico Ruggeri. La vita si impara leggendo, è una frase semplice ma molto potente, anche perché è vera, però non è la frase detta da un filosofo, è la frase detta da un uomo nato senza fortuna, o meglio, con la unica fortuna della sua intelligenza, della sua umanità e del suo talento. È la frase colta di un uomo che in realtà ha fatto la quinta elementare, ma proprio per questo ha capito quanto fosse importante sapere. Insomma, la sua cultura lui se l'è guadagnata da autodidatta, sul campo, col sudore del cervello, non della fronte, ma anche con la sua grande ironia, con la sua battuta pronta, mai volgare, mai volgare. Oggi parliamo di Pino Caruso, del grande Pino Caruso, maestro di una comicità tutta sua. Parliamo un momento della comicità. La comicità è una cosa semplicissima. Basta guardarsi attorno sorridendo, basta cogliere delle cose l'aspetto comico piuttosto che quello drammatico. La comicità ha diverse forme, va dalla battuta rapida alla commedia in tre atti. Pigliamo un esempio di battuta rapida. Un tizio si alza senza voce, va dal medico, bussa alla porta, gli apre una bellissima signora in vestaglia. Allora le fa, dice: "C'è il dottore?" E la signora dice: "No, no, per fortuna non c'è, venga, venga, entri, entri." Eccolo qua, è il comico per eccellenza, quello rapido, quello leggero ma pieno di contenuto. Pino Caruso è stato proprio questo, è stato tutto questo, con quella vena malinconica del siciliano che non vuole fare la macchietta, che non esagera l'accento solo per prendersi un applauso in più, per prendere un consenso in più, che però vuole raggiungere il suo pubblico per le verità che lui nasconde all'interno della sua comicità. Siciliano fino all'ultimo, io che ho i nonni siciliani conosco bene questo approccio, da sempre è stato così in Sicilia, ma comunque da sempre in generale, dalle commedie di Aristofane, la comicità è un pretesto per riflettere sulla società, sulla politica. Caruso ha fatto tesoro di questa lezione senza mai dimenticare il garbo, questa sarebbe da segnarsela, insomma, per i comici di oggi. Lui non si limita a fare le gag facili sui picciotti, sulla Sicilia, sa leggere il suo tempo, leggere il suo mondo, si inventa personaggi che vanno dal discografico all'astronauta, e come tutti i grandi attori comici parte dalla realtà per dimostrare le assurdità dei tempi nei quali viviamo, alla Charlie Chaplin per capirci. Attraverso la comicità vediamo l'irrazionale in ciò che ci sembra razionale, il folle in ciò che ci sembra sensato, l'insignificante in ciò che sembra pieno di importanza. Essa ci aiuta anche a sopravvivere preservando il nostro equilibrio mentale. Grazie all'umorismo siamo meno schiacciati dalle vicissitudini della vita. Esso attiva il nostro senso delle proporzioni e ci insegna che in un eccesso di serietà si annida sempre l'assurdo. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. Lo diceva Chaplin: grazie all'umorismo siamo meno schiacciati dalle vicissitudini della vita. Probabilmente questo è proprio il motore che ha spinto spinto inizialmente Caruso a diventare commediante, il fatto di aver avuto una vita dura, molto povera, molto faticosa. A proposito di citazioni, aggiungerei quella di Peppino De Filippo. Lui diceva: la miseria è il vero copione della comicità. Di miseria Pino ne ha vista tanta. Era nato a Palermo il 12 ottobre del 34, cresce alla Vucciria, rincorso dalle urla del mercato, dai cattivi odori, dalle maschere umane di un quartiere particolare molto popolare, popolano, vero. E il padre ha una piccola bottega di merceria, però era uno, come dice lo stesso Caruso, che non aveva un gran senso degli affari. Quando è finita la guerra e io cominciavo ad avere 5-6 anni, fummo poveri improvvisamente, perché papà aveva un negozio, vendeva la merce, e vendeva merce buona e incassava denaro cattivo, perché l'inflazione ogni giorno faceva perdere valore al denaro. Papà non lo capì e ci siamo trovati a essere molto molto molto poveri, fino a saltare qualche volta il pasto. Eh sì, la povertà, quella vera, peggiorata dalla guerra. Caruso la ricorda, la guerra dei rifugi, mentre gli americani scaricavano tonnellate di bombe che facevano ballare le lampadine. Lui frequenta la scuola in quegli anni, ma le ristrettezze economiche e anche il fatto che fossimo in un paese flagellato dal conflitto, tutto questo, insomma, lo costringe a smettere dopo la quinta elementare, e tutto quello che apprenderà dopo lo deve solo a se stesso. Però lui appartiene a un ceppo buono, quello di suo padre. Lui definisce il padre uomo di un'ignoranza totale, ma che proprio perché ignorante non aveva subito la cultura del cattolicesimo di allora. È interessante questo spunto. Pino e sua sorella, per esempio, sono solo due, invece di finire in una schiera di bambini affamati nati a 5-6 alla volta per ogni famiglia, quelli che a piedi nudi corrono tra le bancarelle del mercato. La civiltà dei genitori però non lo preserva da un destino che sembra già scritto. Dopo la scuola lui è costretto ad andare a lavorare per aiutare in casa, lo racconta proprio lui in una memorabile intervista rilasciata a Enrico Maria Salerno nel mitico Ieri e Oggi della Rai. Sino a 23 anni, che ho cominciato abbastanza tardi, ho fatto diversi mestieri, perché io ho lasciato le scuole abbastanza presto. Insomma, se non avessi fatto le 5 classi elementari adesso sarei analfabeta. Non so, per esempio facevo lo scaricatore, anche se la mia mole di compensare, che ridi? Ne viene, non c'è da ridere. Per esempio di compensati che venivano dalla Russia, e quel legno pressato, sì, sì, e che quindi emanavano un certo acido, per cui io scaricavo questi compensati e mi davano la mattina all'alba, mi davano, non so, adesso non saprei dire in denaro quanto era, insomma poco sempre, eccetera. Poi ho fatto, non so, l'apprendista verniciatore, l'apprendista falegname, l'apprendista tipografo, apprendista, come non apprendevo mai niente, restavo come apprendista, cioè partivo e fermavo lì. E però tutti questi mestieri, man mano che li facevo, io sentivo che non era quello giusto quello per me. La mia prima velleità, che è rimasta tale, ecco, questa ci interessa, è stata quella, volevo fare il giornalista e lo scrittore. Per un ragazzo povero di quel quartiere di Palermo fare il giornalista, fare lo scrittore sono solo sogni, non ci sono soldi, non c'è il tempo per scrivere, bisogna lavorare. Lui rimedia come può, però, con quel poco che ha, ma soprattutto con la sua voglia di capire, con la sua intelligenza. Lui legge, la lettura è il suo unico rifugio. Quando legge dimentica quello che c'è attorno. È Umberto Eco diceva: la lettura, insomma, è vivere tante vite, c'eri sempre se leggi e ci sarai sempre. E quindi magari tra i compensati che arrivavano dalla Russia, come stava dicendo prima, e le mani macchiate, c'è comunque il tempo di leggere, perché a casa un libro a aspettarlo lo trova sempre. Il mio unico rifugio era la lettura. Quando leggevo, riuscivo a isolarmi dalla realtà. Non avendo i denari per poter accedere alle librerie, siccome facevo il chierichetto, cominciai a leggere i volumi di cultura cattolica. Una volta lessi Il genio del cristianesimo di Chateaubriand, senza capire niente. Come un mulo, però, percorrevo il libro, convinto che qualcosa mi sarebbe rimasta. Quando gli americani aprirono in tutta Italia le USIS, United States Information Service, biblioteche aperte a tutti, ebbi la possibilità di prendere a prestito dei libri. Conobbi tutta la letteratura statunitense, scoprendo un'America piena di miserie e di contraddizioni. Forse sono i libri che gli fanno nascere il desiderio di vivere una vita diversa, forse è la miseria che lo spinge verso un destino alternativo. Dentro di lui ha la passione per il cinema, lo racconta anche a Luciano Mironi in una lunga intervista sulla Repubblica. Aveva una passione che non poteva permettersi, gli rimangono solo le sale, quelle proprio di quarto ordine, altre visioni, si diceva una volta, quelle che odorano di sudore, di tutto, quelle che trasmettono i figli 20 anni prima. A 16 anni addirittura lui sta pensando di farsi prete, ma anche in questo caso è il padre, quell'uomo ignorante ma arguto e civile, che lo salva da questa scelta che si sarebbe rivelata sbagliata. Soprattutto a un certo momento volevo fare il prete. Sì, non mi proprio ero accorto. Tutte le volevi apprendista. Provare, proprio tutte. No, sì, sempre apprendista. Non mi ero accorto dell'equivoco, cioè io servivo messa e a un certo momento vedevo che il prete stava sull'altare e quindi era il primatore praticamente. Poi finiva la messa e tutti, finita la messa, gli dicevano prose, gli facevano bravo, complimenti. Così. Quindi aveva equivocato, io volevo fare l'attore, ma altri esempi di spettacolo non avevo. Altro e credevo che, fosse quello lo spettacolo che io volessi fare. Ho capito. Ma meglio così, perché non lo so, cardinale non mi ci vedo. Poi arriva la grande occasione, legge su un giornale che un teatro sta facendo delle audizioni per una scuola appunto di teatro. Siamo nel 57, lui ha 23 anni, e partecipa. Quando gli chiedono che scuola ha fatto, capisce che non ha nessuna possibilità con la sua quinta elementare. Infatti non verrà ammesso, però uno come lui non si ferma. Scrive una lettera contestando l'ingiustizia di una scelta così classista, verrà richiamato non per fare la insomma questo è troppo, viene chiamato per fare il trovarobe, ma lui va bene lo stesso, l'importante è entrare dentro un teatro, mettere i piedi all'interno di quel mondo al quale ambisce, anche perché l'alternativa è la vita che c'è fuori e lui quella vita la conosce già fin troppo bene. Impara una cosa che gli fa capire la differenza tra il mondo della vuoceria e il resto, il modo di firmare, non Caruso Giuseppe ma viceversa Giuseppe Caruso. Piano piano si fa notare a verve, alla parlantina, ottiene qualche piccola parte e naturalmente all'inizio, come capita a tutti i giovani, gli sembra di non andare avanti, di non andare da nessuna parte, decide di emigrare, perché non emigrano solo gli operai e i braccianti, anche i giovani attori con speranze e con poca scuola devono andare in un'altra città per sperare di farcela. La prima tappa è Catania, al Teatro Stabile. In cartellone c'è Questa sera si recita Soggetto di Pirandello e così si trova a contatto con dei grandi attori, per esempio l'immenso Turi Ferro, però il desiderio, diciamo, dell'emigrante non si arresta. Sta lì, passa 4 anni a Catania, è una palestra molto importante, poi c'è un treno che lo aspetta, lo deve portare in continente, a Roma. Lì lui ha deciso di tentare tutto e per tutto, i primi anni sono tremendi, sono durissimi, dorme di nascosto nelle camere di quei pochi amici più fortunati che si possono permettere una pensione, se no dorme in stazione. E poi c'è il padre che lo chiama per sapere come sta andando e lui risponde sempre tutto a posto. Ma la verità è che ha ancora fame, fa la fame, forse peggio che negli anni della guerra a Palermo, solo che questa volta siamo a Roma, non c'è la guerra, c'è la dolce vita, c'è il contatto anche visivo con quelli che invece stanno molto bene, la fame pesa ancora di più se cammini in mezzo ai bar pieni di gente che sta mangiando la brioche o i ristoranti con i piatti giganteschi di pasta asciutta e la gente che mangia in vetrina. Dopo essere stato povero così per condizione familiare, decidendo di fare l'attore e venendo a Roma, dove si deve venire se uno vuole fare l'attore, io a Roma ho fatto la fame, saltavo i pasti. Io abitavo in una pensione sull'Appia Antica. Bene, non mangiavo da un giorno e mezzo, una roba così. Mi telefona un'amica, una ragazza della quale era innamorato, e mi dice: ma perché non vieni a trovarmi qui a casa, così mangiamo un boccone? Ammazza, io dico, in un solo colpo. Lei non mi ricambiava come amore, però dico, guarda, in un solo colpo io mangio e forse riesco, come dire, a guadagnarmi quell'amore che lei non ha per me. Insomma, per farla breve, esco e mi accorgo di non avere i soldi per raggiungere lei, che abitava a Vigna Clara. Io avevo 85 lire, ce ne volevano 100, come si fa? Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando il grande Pino Caruso, un uomo che ha avuto il coraggio di cambiare il suo destino. Era un destino predestinato al contrario, bambino nato in una famiglia povera, senza istruzione, senza prospettive, bambino che a 11 anni già sta lavorando per aiutare in casa. Lui tempo fa in un'intervista disse: la fame non è solamente desiderio di cibo, ma uno stato di infelicità e l'impotenza di non avere i soldi per poter comprare non un vestito ma un bignè. E in questa frase c'è tutto, c'è anche l'impotenza del desiderio, perché a volte il senso di colpa ti porta a sentirti appunto in colpa anche solo a desiderare un bignè, appunto. Non ci si può permettere di avere dei sogni, e poi ci si deprime perché a forza di non realizzare i sogni si sta male, ci si sente annientati dentro. Ma Giuseppe Caruso, detto Pino, anzi all'inizio Caruso Giuseppe perché lui era abituato a firmarsi così, Giuseppe Caruso non si annienta per niente, ha una tempra molto forte, capisce che il teatro è il suo sogno, non arretra, parte, lascia la sua Sicilia, quella Sicilia che poi tante volte in seguito prenderà affettuosamente in giro proprio per difenderla. No, a proposito di bombe, di guerre e cose, in Sicilia hanno fatto una pensata che solo in Sicilia la potevano fare. Dice che Einstein, che era siciliano, no, ma se lo meritava. E allora hanno pensato questo, si sono riuniti un gruppo di persone autorevole, il più autorevole di tutto ha preso la parola, dice: con questa Italia che ci dà fastidio, basta che non ci andiamo bene, facciamo una cosa, ci stacchiamo dall'Italia, diventiamo uno Stato autonomo, dichiariamo guerra all'America, la perdiamo, che questa è la furbizia, diventiamo uno Stato americano e così ci arricchiamo. C'era uno che stava lì nascosto, dice: scusa, posso dire una parola? Ci prego, dica. E se la vinciamo? È per questo che io sono ottimista. Che Dio vi assista. Baciamo le mani a tutti. Prima tappa a Catania, poi Caruso alza l'asticella, parte per Roma, stiamo parlando della Roma della dolce vita, di Via Veneto, di Cinecittà, con lui che non riesce a trovare un lavoro a teatro e ha questa sensazione invece che da giovane ti può capitare, che tutti ce la facciano tranne te. E poi arriva, è un, come dire, un battito d'ala più potente degli altri, un colpo d'ala, insomma, a terra. Arriva davanti a un piccolo teatro per interpretare Il venditore di echi di Dino Gaetani. Il copione prevede 13 parti per 13 attori. Il 13 per me è il mio numero fortunato, ma per molti non lo è. Di fatto non ci sono soldi per tutti. Per fortuna lui si candida, diciamo, a tutti e 13 i ruoli. 3.000 lire il cachet da dividere in 13, e invece se lo prende tutto lui. Spettacolo spelacchiato, spade di carta, vestiti con le toppe, troppe. Però una sera in sala c'è anche Luciano Cirri e un giornalista del Borghese. Erano ancora anni nei quali una buona recensione di un giornalista poteva cambiarti la vita. Lui scrive bene di Caruso e delle sue 13 personificazioni. Cirri fa parte di un gruppo che comprende anche Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci. Se io vi dico Castellacci e Pingitore suona ancora meglio, perché erano una coppia, insomma sarebbero diventati una coppia molto famosa. Hanno una compagnia che stanno creando, si chiama originariamente Bragaglino in onore del regista Anton Giulio Bragaglia, poi la famiglia si oppone e loro così su due piedi non trovano niente di meglio che togliere una R, insomma così nasce il Bagaglino e finalmente comincia a essere, diciamo così, al sicuro all'interno di una compagnia, può tirare il fiato invece che tirare la cinghia, è salvo, ha trovato casa in teatro, ha trovato una famiglia con altri attori, tra questi c'è Oreste Lionello, e da quel momento il successo comincia a arrivare anche velocemente. Come veloci sono gli spettacoli del Bagaglino, divertenti, sono dei flash irriverenti, insomma sono perfetti per Pino, che rivela subito le sue doti. E la coppia Castellacci-Pingitore gli cuce addosso subito uno spettacolo, Pane al pane e Pino al pino. Va molto bene, nel giro di poco tempo lui arriva finalmente alla Rai. Poco tempo, nel breve, insomma, negli ultimi anni, ma in realtà lui sbarca alla Rai quando ha 35 anni, quindi insomma la gavetta l'ha fatta tutta, non è come oggi, sono passati 10 anni da quando era arrivato in quel teatro di Palermo col suo non curriculum in mano. Adesso invece il palcoscenico è quello dello Studio 10 della Rai. Sta partendo una trasmissione e si chiamerà Teatro 10. Andrà in onda dal 68 al 75 con vari presentatori che si alterneranno. Nel 69, per esempio, c'è Raffaele Pisu al timone. Con lui Pino fa una presentazione diversa dove il non detto è molto più forte del detto. Insomma, l'idea è prendere in giro la censura televisiva senza parlare esplicitamente di nulla. Ma il treno che viene dal sud cosa ci ha portato oggi? Chi ci ha portato? Un amico che ha lavorato sempre con me, una cara persona, Pino Caruso! Eccolo qua, carino! Senti Lele, hai un pubblico, hai sentito, caldissimo, una meraviglia. Un microfono a spaghetto, diciamo, l'orchestra che è una macedonia, c'hai tutto, c'hai la ciliegina che è il maestro Calvi sopra, puoi cantare, puoi fare qualsiasi cosa, è libero, puoi fare, puoi dire, puoi cantare, puoi parlare, che vuoi fare? Sono contentissimo. No, dunque, allora volevo dirti, senti, sarebbe opportuno, credo, fare quella cosa che tu sai, quella del... No, non puoi dire tutto, meno quello non... Cioè, abbiamo possibilità di dire qualsiasi cosa, meno quello, quello non... Va bene, no, senti, allora c'ho quell'altra, quella che parla dei due... No, anche quella, no, meglio che fai altre cose. Vabbè, senti, posso almeno alludere appena? No, guarda, qui meglio che inventi un altro alfabeto, Baciamo le mani, arrangiati, il pubblico e tuo, un applauso di incoraggiamento e via Pino Caruso! Pino ha sfondato, il pubblico del teatro ride davanti a lui senza bisogno che appaia la scritta ridere, applausi, che si usava in quegli anni, e lui a casa tiene incollati milioni di telespettatori, ce l'ha fatta. Arrivano altri programmi nel 70 dove sta Zazà, presentato da Gabriella Ferri con Enrico Montesano, spettacolo mitico della televisione, peraltro è stato uno dei primi programmi a essere ripreso sperimentalmente a colori, cioè adesso lo vediamo a colori nelle repliche, in realtà in quegli anni noi lo vedevamo in bianco e nero. Nel 71 è ancora Teatro 10, questa volta c'è Alberto Lupo e ancora una volta lui si rivela non solo moderno ma direi profetico, se pensate a come siamo messi oggi. Cosa ne potete sapere voi, signori miei, quanto è cattiva la gente? Scrissero lettere anonime al capo ufficio. Insinuarono, ed era vero, che io a casa mia nel televisore ci tenevo la mozzarella. Ma perché, scusi, il televisore così vitreo non è un ottimo contenitore di mozzarella? Allora io sarei pazzo perché nel televisore ci metto la mozzarella e loro che tutte le sere ci mettono una bufala qui! Non sono pazzi! Poi comincia a recitare anche al cinema, nel primo film interpreta se stesso con Walter Chiari e Paola Quattrini, il film è La più bella coppia del mondo. Poi ci sono pellicole migliori, c'è Malizia di Salvatore Samperi dove interpreta un prete, pensate, Il destino, Don Cirillo, e poi si troverà a recitare in Malizia tra l'altro con Turi Ferro, il suo, uno dei suoi mentori, diciamo, quello che aveva conosciuto ai tempi di Catania. Nel 75 arriva La donna della domenica, lui è il commissario De Palma che nelle indagini sta affiancando il commissario Santa Maria, che invece era interpretato da Marcello Mastroianni. Però lui è sempre tentato dalla televisione, dal teatro. Nel 75 arriva Mazza Bubù, ancora con Oreste Lionello Montesano e Gabriella Ferri, e poi c'è La Vanoni, spettacolo Due come noi nel 79, regista mitico Antonello Falco. Insomma, Caruso è perfetto per quel genere di spettacoli che sono quelli della grande tradizione televisiva italiana. È con lui che sembra un corpo estraneo, in realtà è solo un abbellimento, perché è elegante, è spigliato, è veloce, è molto intelligente, è molto moderno. Lui non è uno che si crogiola nella sua tradizione, seppur nobile, come quella siciliana. No, lui è quello che ha lasciato tutto per arrivare nella capitale, quello che non ha rimpianti, è sempre proiettato verso il futuro, sa leggerlo questo futuro con lucidità, che in qualche modo precorre i tempi, ti mette sull'avviso quando lui fa i suoi monologhi. Insomma, ha un quadro preciso della situazione e vuole raccontare il mondo, e lo farà non solo attraverso le gag. Il falco e il gabbiano. Pino Caruso si rivela sempre più un personaggio poliedrico che fa fatica a rimanere chiuso, diciamo, dentro gli stilemi del mestiere d'attore, dentro a quelle maglie un po' strette. La sua necessità di apprendere, necessità che ha caratterizzato tutta la sua infanzia, cioè lui ha combattuto per andare contro un destino di ignoranza dovuta alla povertà, e tutto questo lo incita a studiare, a impegnarsi, a alzare l'asticella, a rilanciare, e sapendo che è difficile, perché lui amava dire la cultura costa mentre l'ignoranza è gratis, ecco perché è così diffusa. Se l'ignorante ritiene di essere normale e non si pone il problema di un disagio che gli viene dalla sua ignoranza, quello ignorante resta, perché pensa di essere lui il metro di tutte le cose. Non è così. La televisione deve essere chiara, la chiarezza è un conto, il livello è un altro. Cioè, io sono convinto che chi è ignorante deve sentire tutto il peso della sua condizione, perché si alza il culo dalla sedia e cerca le informazioni. E le cose si possono capire soltanto informandosi. Parole che dovrebbero essere scolpite veramente sulle porte delle scuole, ripetute continuamente di fronte a quella moltitudine di persone, peraltro che aumenta giorno dopo giorno, che si crogiola, che si vanta della sua ignoranza, che ne fa metro del mondo. Io ho imparato sulla strada. Ok, tutti abbiamo imparato sulla strada, però se poi ci butti dentro qualche libro e azzecchi due o tre congiuntivi, stiamo tutti meglio. Comunque, lui, Pino Caruso, da Palermo si è alzato da tempo da quel mondo di ignoranza nel quale era nato. Ha fatto tanti passi che non sono mai abbastanza per lui. Ha scoperto che si sente più forte con la penna in mano, comincia a scrivere molto per la televisione, poi per i quotidiani, scrive per Il Mattino, Il Messaggero, Paese, Sera, La Sicilia. Scrive soprattutto per se stesso. Il suo primo libro si chiama L'Uomo Comune, racconti scritti di nulla, come dice lui, uomini normali che non sono né troppo poco, pirandelliano fino in fondo. Seguono altri libri come Appartengo a una generazione che deve ancora nascere, oppure Il senso dell'umorismo è l'espressione più alta della serietà, oppure Se si scopre che sono onesto nessuno si fiderà più di me. Quindi paradossi, dichiarazioni di intenti, insomma, già dal titolo capisci che hai voglia di leggerlo un libro così. Ci sono aforismi, ci sono riflessioni sulla vita, ci sono storie di persone. Peraltro il suo impegno lo porta anche a diventare il segretario del sindacato degli attori e sotto la sua gestione questo sindacato si preoccuperà di istituire una specie di SIAE per gli artisti, per i diritti sulla riutilizzazione delle loro opere, e non si farà pagare per questo incarico, anzi per certi versi pagherà lui in prima persona la scelta, visto che per difendere le cause della sua categoria verrà messo un po' al bando da certi produttori. Però insomma lui è fatto così, l'onestà è qualcosa che ha imparato da piccolo, che ha imparato in famiglia. Mio padre era una persona strutturalmente onesta. A casa non c'era bisogno di dire non rubare. Era un principio insito nei comportamenti quotidiani. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. E il suo impegno civile viene riconosciuto e la città lo ripaga. Il sindaco di Palermo, Luca Orlando, lo chiamerà a lavorare lì e dal 95 al 97 progetterà e dirigerà Palermo di Scena, che è una manifestazione d'arte, di spettacoli. Ha l'idea giusta, l'idea perfetta, molto moderna, trasforma il tradizionale festino della patrona della città, cioè Santa Rosalia, lo trasforma in un vero e proprio spettacolo pensato non solo per i cittadini ma anche per i turisti. Insomma, precorre i tempi, oggi i paesi più evoluti abbinano, diciamo, alla festa religiosa qualcosa di culturale. Nel 2001 verrà richiamato a ripetere questo spettacolo. E lui però in televisione ci torna spesso, una delle sue interpretazioni più famose tra quelle recenti è il maresciallo Capello in Carabinieri, che era la fiction andata in onda per tanti anni su Canale 5. In un'altra fiction, L'onore e il rispetto, interpreta un mafioso, e lui che peraltro è la cosa più lontana che c'è da questo stereotipo, ma forse proprio per quello lo interpreta alla perfezione. E poi è protagonista di un monologo scritto da Dacia Maraini, Mi chiamo Antonino Calderone, tratto da un libro di Pino Arlacchi, la storia di un mafioso, sì, ma un pentito, uno a cui non andava di uccidere e che quando lo faceva non sentiva niente perché la sua anima non era lì, non c'era la coscienza. La coscienza, l'anima, averle è difficile, bisogna avere un occhio vigile, uno sforzo continuo, lavoro, molto lavoro su se stessi, tutto quello che ha contraddistinto Pino Caruso. Era un vegetariano convinto, pur senza essere uno assillante, non era come i vegani di oggi che se ti vedono mangiare un agnello fanno una manifestazione in piazza, no, era ironico, batteva sull'ironia anche per difendere le sue opinioni. Per esempio diceva: mangiarsi con gusto un animale è un assassinio premeditato a scopo di libidine, digerirlo, occultamento di cadavere. Pino Caruso ci ha lasciati il 7 marzo del 2019, lo salutiamo con una battuta sua: la vita meglio di niente, e la sua è stata molto di più. Stata garbo, ironia, acume, autoironia, e ci ha fatto riflettere, non ci ha mai aggredito, questa è la cosa che ricordo più volentieri. E in anni nei quali i comici sono semplicemente delle mani armate di qualche partito, Caruso sapeva essere assolutamente superiore. Se volete mandare dei commenti e segnalare vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al Falco il Gabbiano, @radio24.it, ma comunque sapete dove trovarmi. Un bacio alle mani a tutti. Data Center.